Cristina diventava sempre più nervosa. Anche le auto private avevano incidenti, ci aveva raccontato l'ingegnere Kuhn, il quale si era rotto una clavicola finendo in fondo a una scarpata con la sua Chevrolet. A un tratto sentimmo dei gemiti provenienti da una tenda nera. Ci fermammo. Interrompendo i loro lamenti funebri, alcune donne ci vennero incontro, indimenticabili in quelle vesti rosso scure sotto il manto nero. Ci scambiamo domande, sguardi curiosi e ci divertimmo insieme fino a che un uomo si avvicinò per congedare le nostre nuove amiche. Gli dissi che le donne possono benissimo fare a meno degli uomini e la mia osservazione fu accolta da complici risate. Eravamo tutte coalizzate contro di lui. Ma quell'afgano era talmente bello, talmente sicuro di sé con la falce in mano, gli occhi dorati sotto il turbante nero, le labbra carnose dischiuse sui denti candidi, che l'incontro con le nere incantatrici perse di interesse. Il suo modo di esaminare la Ford e le sue domande rivelavano un'intelligenza pronta. Non ricorse a nessuna frase d'uso comune come «avete figli, fratelli, sorelle, quanti?». Quell'individuo era forse capace di rubare o di uccidere secondo un codice d'onore differente dal nostro, ma soprattutto era un uomo, un capolavoro di assoluto splendore, intensamente vivo, in pace con se stesso, e ogni suo atteggiamento era improntato a semplice nobiltà. Più tardi, mentre facevamo uno spuntino nel boschetto di gelsi ad Oshi, continuammo a parlare di lui, ma quell'uomo magnifico non era certo unico nel suo genere. Alcuni giorni dopo, in quel mondo isolato di valloni susseguenti che si stende al di là di Bamian, scorgemmo d'un tratto un contadino che, camminando con passo rapido ed elastico, cantava accompagnandosi con una piccola viola appoggiata alla vita. Era solo, e quando rallentammo ci inviò il saluto abituale. Mandah Nabashi! Al quale rispondemmo Zindabashi. In una contrada dove le distanze sono così grandi, quale migliore augurio che possa tu non essere mai stanco e possa tu vivere a lungo? Non era stata tanto la sua venenza a colpirci, quanto la luce bellissima che brillava nei suoi occhi. Quel giorno fu come illuminato da tale incontro. Il medesimo sfavillio si accende talvolta nello sguardo di un adolescente quando scopre in sé l'amore, un amore che la sente così vitale e determinato da poter, in virtù di esso, trasformare il mondo. Prima, stretta e profonda, la vallata si aprì all'improvviso, offrendoci la vista di grandi falesie rossastre sotto un cielo blu cupo. Erano le pareti di un altopiano, spettacolo sorprendente in questo paese tutto di rocce in verticale, che si distendeva con un sorriso inatteso nella conca austera volta verso il cielo. Quella radura pietrosa terminava a Do Au, borgo situato all'imbocco della gola del Dar-i-Shikari, che avremmo costeggiato. Due piccoli autocarri erano fermi davanti a una casa da tè. I passeggeri avevano ordinato tè e uova sode e noi li imitammo. Nell'attesa applicai impacchi di permanganato sull'ascesso di un vecchio gioviale e allegro. L'atmosfera sembrava delle più accoglienti, ma poco dopo mi dovetti ricredere. Il padrone affermò di non avere uova, benché ne vedessi a pochi metri da lui, e ci consigliò di andare alla locanda per viaggiatori ufficiale. Mi adirai, gli urlai che mai eravamo state trattate in modo simile, tanto contrario alle leggi dell'ospitalità, e che non eravamo bestie pericolose da respingere dietro le tristi mura di una casa di pietra. Soltanto più tardi pensai che forse quell'uomo obbediva a ordini concernenti gli stranieri. Arrivammo alfine in quella locanda polverosa che venne aperta per noi. Il feltro che copriva il mobilio, certamente piacevole in inverno, sembrava appesantire l'aria già così afosa. Il luogo era cupo come una prigione a confronto della vivace e colorata allegria della casa da tè. Non avevamo attraversato due continenti per stare sedute, nostro malgrado, tra quattro pareti deprimenti. Il gestore ci mostrò il listino dei prezzi, dove constatammo che il tè con le uova costava quanto un pasto normale. Vivendo ormai da tante settimane in maniera spartana, non riuscivamo ad abituarci ai costi esorbitanti di questi piccoli alberghi statali e già molte volte avevamo discusso al momento di pagare il conto. La cosa mi stava a cuore, tanto che, Giunta a Kabul, andai dal responsabile di questo tipo di locande per fargli notare che simili prezzi potevano convenire a consoli e ministri in missione nel paese, ma che dall'Europa arrivavano anche viaggiatori come noi, costretti a economizzare il più possibile. Gli consigliai dunque di tenere a mente che se in Afghanistan si costruivano delle mehman khana per gli stranieri era con tutta probabilità per favorire il turismo, ma che a tali condizioni esse sarebbero state evitate come la peste dalle persone come noi. Per questo motivo lasciammo Doau sbattendo la porta e, oltremodo contrariate per l'incidente, decidemmo di non andare a nessun costo nell'albergo di Bamian. Tale risoluzione doveva avere gravi conseguenze. Il Dareh-i-Shikari, la forra del cacciatore, dipana per 45 chilometri una serie di spettacoli suggestivi. Le pareti rocciose rasenti l'acqua non lasciano vedere che un nastro di cielo blu scuro e i ponti sembrano lanciare la strada da una sponda all'altra. Percorrevamo tratti sotto minacciosi muri a strapiombo che offrivano zone d'ombra deliziosamente fresche. Volendo avremmo potuto trovare in questi paraggi un'immensa caverna che racchiude le ossa di 900 o 9000 persone cadute in un'imboscata mentre fuggivano da Gengis Khan. Talvolta i fianchi della montagna si distanziavano e il sole benediva l'acqua turchina e increspata. Alcune capre brucavano l'erba dura della riva e sulle cime delle colline si innalzavano torri squadrate costruite per difendere le vie di comunicazione. Un samovar che spuntava come un grande bulbo su una spianata di terra battuta al riparo di un tetto ci suggerì, assieme alla sua fila di teiere colorate, di approfittare dell'occasione. Un cavaliere sopraggiungeva facendo risuonare sul suolo compatto gli zoccoli del suo cavallo. Quel rumore così particolare mi riportò alla memoria la mia vita di un tempo lungo le mulattiere asiatiche. Avevo smesso di appassionarmi a simili avventure. Il vento soffiava violento in quella forra, tunnel colossale in cui si incanalava un'aria ardente che avrebbe poi arroventato il deserto del Turkestan. Eravamo salite di molto e ci sentivamo rinascere. Soltanto un'ora di strada ci separava da Bamian, punto culminante del nostro giro e ultima tappa prima di raggiungere gli Hakin. Acceleravamo l'andatura per sfuggire il freddo delle gole. Avevamo visto anche un picco a forma triangolare imbiancato di neve. Lasciando la vallata, attraverso un passaggio della parete occidentale, seguimmo il corso del fiume di Bamian, le cui acque limpide e saltellanti di roccia in roccia rappresentavano, come dovunque in Asia, la più grande delle gioie, promessa di campi, di alberi e di pascoli. Una carovana di asini si riposava su un piccolo promontorio accanto alla mercanzia da caricare, mucchi simili a blocchi di marmo grigio. Sapevo dal mio precedente soggiorno a Bamian, in compagnia degli Hyakin, che si trattava di sale. La valle si restrinse un'ultima volta e poi, come prue di vascelli di fronte all'invasore, apparvero le falesie purpuree di Shar-i-Zoak, alte sul verde prato che lambiva il fiume scintillante di luce d'oro. Da lì una pista conduce direttamente a Kabul, seguendo dapprima un piccolo affluente, il Kalu, per risalire fino al colle del Haji Gak, raggiungendo così l'alta regione del Helmand e infine il colle di Unai, prima di Kabul. Superate le falesie, Bamian ci apparve tutta intera. Chilometri di quieta campagna riparata dai venti del nord dall'Hindu Kush. Verso sud, lievi salite portavano sino a Koh i Baba e guardando in questa direzione scorgemmo l'albergo isolato sotto il suo pallido tetto di zinco. Due nicchie scure, sorta di gigantesche garitte, proteggevano i grandi Buddha scolpiti nelle falesie settentrionali. Quello spettacolo apparteneva ancora al futuro. Il nostro presente era una tenda grigia ai piedi di una scarpata e il verde tappeto erboso su cui spiccava il manto rosso-bruno di piccole vacche. Dall'altro lato del fiume si delineava un angolo retto formato da due pareti di falesie scanalate, erose, merlettate come mura di castelli fatati. I loro colori porpora, grigio, arancione erano così vivi che lo sguardo vi ritornava di continuo, quasi per assicurarsi che esistessero davvero. Sotto i dardi del sole calante, quelle rocce assunsero lucentezze di velluto, si trasformarono in visione fiammeggiante di un mondo da leggenda. Il tenero prato, la limpida irradiazione dell'aria, la pace intensa della fertile vallata ci compenetrava di totale voluttà. Soltanto per questo istante di assoluta compiutezza era valsa la pena di percorrere un così lungo cammino. La piccola tenda ci avvolse con le sue abituali comodità, il fornellino da campo ci permise di cucinare una minestra, risotto e albicocche fritte, e ancora una volta ci mettemmo a parlare dell'avvenire. Cristina sapeva che non sarebbe diventata archeologa. Scrivere, infatti, era la sua unica ambizione, ma al momento la cosa migliore per lei era trascorrere un periodo di 6 mesi di vita regolare insieme con gli Hakin. Non pensavo di condurla con me nel Kafiristan, e d'altronde era ancora troppo debole per vivere da sola, benché la sua fiducia in se stessa si fosse rinsaldata di giorno in giorno. Ricordo di averle detto: «Se la vostra vera natura è scrivere, prima o poi l'ispirazione sarà tanto forte da costringervi al lavoro, senza possibilità di fuga. Nell'attesa, accettate il sostegno che l'organizzazione umana offre a chi ne fa parte». Ogni lavoro affrontato con intelligenza può presentare un interesse sufficiente da costituire un'ancora di salvezza nei momenti di depressione. La mia compagna non capiva quale motivo mi spingesse a voler diventare un'etnografa, perché non scrivevo libri che invogliassero a conoscere il mondo, a spezzare le catene dell'abitudine. «Un simile risultato è per me ormai privo di interesse», risposi. A che cosa serve mandare la gente per il mondo? So per esperienza che viaggiare può essere utile soltanto per ammazzare il tempo e che si ritorna insoddisfatte come quando si era partite. Occorre fare di più. È puerile limitarsi a biasimare dittatori o governi per il caos in cui ci troviamo. L'etnografia mi darà la possibilità di mettere a confronto l'Europa con società non industrializzate. Ricordate la nostra conversazione lungo la strada ghiacciata nei pressi di Neuchâtel? In quale momento l'Europa si è allontanata dalla giusta via? Quando abbiamo smesso di essere degni di noi stessi e di andare a testa alta? Perché le società tradizionali si sono ovunque tanto indebolite da crollare sotto il peso di un materialismo che non offre alternative? Queste ultime parole furono portate via da una folata di vento gelido. Chiusi allora la cerniera lampo della tenda. Sapete al pari di me che il montanaro afgano, il tibetano, il mongolo, pur vivendo una vita difficile, soggiunsi, non sono tuttavia assillati dal nostro bisogno lancinante di considerare la miseria del mondo nella sua interezza come se fossimo Dio. Quando una cosa bella e buona ci regala un attimo di gioia, subito ci sentiamo colpevoli perché, mentre noi godiamo, in qualche luogo vi sono fratelli che si uccidono gli uni con gli altri o perché i figli della povera gente hanno volti emaciati e vestiti ormai troppo stretti. Dopo un momento di silenzio, conclusi: «Esisterà una via di mezzo tra l'amaro sapere dell'Occidente e l'incosciente ignoranza propria del mondo dei nomadi». Bamiyan. Le prime ore della giornata furono allietate da una festa di colori vivaci ma sfumati come di madreperla. Lo smeraldo dell'erba tenera, l'arancio e il viola delle falesie, l'oro dei campi, il luccicare delle foglie dei pioppi, e lassù dominava il blu del cielo, corposo, profondo, simile a quello che illumina i campi innevati della Svizzera. Grigio ed etereo, il Koh Ibaba sembrava sospeso in lontananza. Verso nord, al di là dei colossali Buddha scolpiti nelle rocce, si innalzavano alte montagne dove, tra le ombre di scuro velluto dei burroni, splendevano candide chiazze di neve. Numerose grotte erano state scavate lungo le pareti rocciose e alcune, ancora abitate, avevano i bordi anneriti dal fumo. Il Dipartimento di Archeologia cercava di fare il possibile per salvaguardarle, al pari delle cappelle ornate di affreschi e di stucchi. Una soprattutto, i cui muri scanalati erano a forma di tronco di cono, mi rimase impressa. Il soffitto piatto, era formato da riquadri di misura decrescente a imitazione di una travatura, le estremità dei lati intersecandosi nel mezzo degli altri. I tedeschi chiamano questo tipo di soffitto a lanterna. Quel particolare mi aveva incuriosita, avendo visto la medesima struttura di legno in una dimora del Tagdumbash Pamir, in cui il quadrato centrale forato fungeva da camino della sala principale. I Saricoli, tribù che abita quella parte del mondo, mantengono riti che si apparentano all'adorazione del fuoco. Anche molto più a nord, al centro dello Xinjiang, si ritrova lo stesso tipo di soffittatura nelle grotte di Kizil. Ci dirigemmo verso il più piccolo dei due Buddha, ritto nella sua nicchia. Il volto tagliato in due in senso longitudinale, la parte restante di un braccio tesa a reggere le pieghe della veste modellate in uno strato di malta. Da vicino, invece, risultava difficile capire che cosa rappresentassero le immense scanalature della scultura. Si distingueva appena un bizzarro gioco di ombre e di luci. All'altezza della testa vi era una balconata circolare intagliata nella rupe da cui si intravedevano le decorazioni pittoriche del soffitto e dei muri. Cavalli, personaggi, il sole, la luna, tiare, perle e le cascate di nastri che caratterizzano l'arte sassanide. Ricordo un blu cobalto di intensità pari a quella del cielo di Bamiyan riprodotto su un affresco al Museo Guimet. Un arco rampante di costruzione moderna rinforzava un lato della roccia spaccata a fianco del Buddha, più volte danneggiato dai fanatici musulmani. Una somma di 60.000 afghani era stata raccolta con facilità per le opere di restauro, ma alcuni anni prima, allorché il governo aveva emesso un francobollo con l'effigie di questo stesso Buddha, era stato necessario ritirarlo dalla circolazione perché la raffigurazione antropomorfa indignava troppo gli islamici. Dopo aver attraversato la città di Bamiyan, arrivammo al grande Buddha che dall'alto dei suoi 53 metri sovrasta campi di erba medica e di meloni. Gli arti inferiori erano quasi interamente distrutti e così il volto, il cui orecchio è lungo due volte un uomo. Saliti al di sopra della sua testa, un mondo arioso di rara bellezza ci avvolse. Le montagne intorno, le scacchiere dei campi, il sorridente vallone di Foladi e, più lontano, il dolce Koh i Baba. Gli affreschi della nicchia che si fanno risalire al V secolo d.C. rappresentano alcuni bodhisattva seduti nella tradizionale posizione. Secondo il buddismo, il bodhisattva è colui che, pur giunto attraverso progressivi stadi di illuminazione alle soglie del nirvana, vi rinuncia per salvare i propri simili e aiutarli a raggiungere la liberazione. Immerso in un'atmosfera di sereno riposo, il paesaggio è quanto di più benefico offra Bamiyan. Fu probabilmente questa la ragione che spinse monaci buddisti a edificare qui, all'inizio della nostra era, alcuni monasteri. Xuan Zang, la mia guida, in tanti luoghi visitò le grotte nel 632. 20 anni prima che la conquista islamica le avesse ancor più danneggiate di quanto già avevano fatto gli unni bianchi. Egli riferì di 10 monasteri e di molte migliaia di monaci. Secondo le sue parole, gli indigeni hanno una natura dura e selvaggia, ma sono superiori ai popoli vicini per la purezza della loro fede. Attraversammo la vallata nei cui campi i contadini raccoglievano ceci per raggiungere il piccolo Buddha di Foladi, scolpito in un'alta parete tutta scavata di grotte abitate. Alcuni vasai cuocevano le loro giare su un fuoco di sterpaglia, da cui saliva un fumo nero. Rividi la fattoria senza finestre dove ero andata 2 anni prima per incontrare un poeta cieco dotato di grande fascino. Aiutata da Ahmed Ali, l'interprete, Ria Hakin ne aveva trascritto poesie e leggende. Mi sentivo a mio agio nel Bamiyan di oggi, ma non lo sarei stata altrettanto in passato. Sedute sul bordo di una scarpata, Cristina e io riflettevamo quali bisogni avevano indotto l'uomo a scolpire i simboli della sua fede nelle falesie erose dal tempo, quali furono i pensieri, le meditazioni, le preghiere di quelle migliaia di monaci che si sottomisero agli ordini di un grande lama. Benché già famoso in Cina per la sua grande saggezza, Xuanzang era partito alla volta dell'Occidente indù alla ricerca della conoscenza e colà studiò tutti i grandi maestri del buddismo. Uno degli aspetti fondamentali di questa religione è la compassione. Quando leggo ciò che Asanga insegnava a tale riguardo, penso che ora più che mai avremo bisogno di provare un simile sentimento. Pietà dei miserabili, pietà dei violenti, pietà degli iracondi, pietà dei negligenti, pietà dei servitori della materia, pietà della pertinacia nell'errore. Secondo il buddismo, della corrente mahayanica, pietà e conoscenza suprema sono qualità essenziali. Tale conoscenza non può essere raggiunta senza il distacco del cuore e della mente, ma il processo è lento. Asanga scriveva: attraverso innumerevoli prove e l'accumularsi di altrettanto bene si acquisisce la conoscenza totale. Gli ostacoli si disperdono e la buddhità viene alla luce come quando si scoperchia uno scrigno di gioielli, grande e in potere. In tal caso, lo stato così raggiunto è ben lontano dall'avere quella connotazione negativa che attribuivo al nirvana. L'universalità della buddhità nella moltitudine degli esseri si dimostra nel suo comprenderli tutti in sé. Come lo spazio è universale nella moltitudine delle forme, così essa è universale nella moltitudine degli esseri. Uno stato che ammetta in sé tutte le creature non può essere negativo. Sono parole, ma quale esperienza diretta, vissuta esse implicano? E quale relazione intercorre tra un Buddha e tale inconcepibile buddhità? La personalità, risponde magnificamente Asanga, consiste nell'impersonalità capitale. Soggiungendo che questa impersonalità trascendente non è altro che la natura assoluta delle cose. Tali frasi erano riportate nel libro di René Grosset su Xuanzang, Sur les traces de Buddha. Ci chiedevamo se l'autore aveva compreso e sperimentato di persona il loro significato. Esiste oggi un uomo che sappia chiaramente a che cosa si riferiscano simili concetti? Mi ritornava alla mente il giorno in cui Grosset volle presentarmi persone che bisognava conoscere. Fu distratto per fortuna dal suo proposito non appena ci apparve un tavolino sommerso da una montagna di crostatine alle fragole. Senza pudore ci buttammo a divorarle, felici di sentirci ancora come grandi bambini, dimentichi di ogni timidezza nella gioia del momento. Perché non avevo approfittato allora per chiedergli di spiegarmi quelle frasi essenziali? Se vi è una persona che ne conosca il significato, dissi a Cristina, varrebbe la pena di andare a vivere presso di lei il più a lungo possibile. Sì, forse, rispose, ma se scoppiasse la guerra non sarebbe nostro dovere ritornare per aiutare gli altri. Passeggiando, costeggiavamo una collina d'argilla bianca, Shah i Golgola, che dicono essere stata una città greca. Qui il re di Bamiyan era stato assediato da Gengis Khan e la cittadella musulmana sarebbe stata inespugnabile se la figlia dello stesso re non si fosse innamorata del figlio dell'invasore. Ella gli mostrò un passaggio segreto da dove arrivava l'acqua alla città di cui in quel momento fu segnata la condanna. Era il 1222. Furioso per aver perduto un nipote nel corso della battaglia, Gengis Khan fece giustiziare tutti gli abitanti della vallata e raderne al suolo le case. Non poteva permettersi di lasciare in vita nemici che avrebbero minacciato le sue retroguardie, poiché in quello stesso periodo stava inseguendo il figlio di Muhammad di Khawarazm. Ritornammo con la macchina sino ai piedi dello Shah-i-Zohaq, la montagna a forma di prua che domina l'uscita della valle, offrendo la straordinaria visione di pareti violette incoronate da mura, di torri rotonde e di castelli merlati, costruiti forse dagli arabi. Le fortificazioni erano per lo più tanto usurate dal tempo che difficilmente si riusciva a distinguerle dalle rocce erose da pioggia e vento. La montagna prende nome da Zohak, straordinario personaggio menzionato nello Zend Avesta e nel Libro dei Re. Quel demone aveva veramente vissuto in un luogo tanto impressionante? L'ambiente era certo perfetto per lui. Nella notte dei tempi il serpente Azdahak o Zohak era il demone delle tempeste e si diceva che la contaminazione delle acque fosse dovuta al suo veleno. Nel Libro dei Re egli è figlio di un re del deserto e, soggiogato dallo spirito del male Arimane, uccide il padre. Arimane, diventato il suo cuoco, gli fa compiere sacrilegio servendogli della carne. Il re la trova squisita e vuole per questo ricompensare chi l'ha preparata. Arimane esprime come unico desiderio di baciare le spalle del proprio padrone, ma non appena ciò gli è stato accordato, ecco spuntare due serpenti, uno su ogni spalla. Ed è inutile amputarli, essi ricrescono sull'istante. Arimane consiglia allora il re di nutrirli giornalmente con cervelli umani. Jamshid, un re buono ma troppo orgoglioso e quindi vulnerabile, sfida Zohak che lo taglia in due e da allora regna incontrastato per 1000 anni. Trascorso tale periodo, egli fa un sogno spaventoso che, secondo l'interpretazione dei sapienti di corte, gli preannuncia la morte per mano del giovane Feridun. Zohak ordina allora di sopprimere tutti i bambini maschi del regno. Feridun, tuttavia, è messo in salvo e allevato in India, ma appena è in età da punire il re, ritorna dopo aver liberato le figlie di Jamshid, prigioniere ormai da 10 secoli, armato di un grosso bastone, cattura Zohak. Un angelo gli chiede di non ucciderlo, ma di incatenarlo in una caverna del Damavand. Mentre scendevamo dallo Shar-i-Zohak, vedemmo alcuni nomadi piantare le loro tende nere nei pressi del fiume che dovevamo attraversare a guado. Vi era una mescolanza di tipi e soltanto 2 o 3 vecchi indossavano ancora l'ampia tunica afghana. In molti ci accompagnarono fino alla Ford. La singolare pettinatura delle bambine si componeva di innumerevoli treccine, risultato di un lavoro di tale pazienza da presumere che non fosse ripetuto di frequente nel corso dell'anno. E perché la testa risultasse perfettamente in ordine, i capelli erano inoltre cosparsi di una sostanza a base di fango. Dimenticai di chiedere se quell'argilla avesse anche proprietà antiparassitarie. L'anziano mi affascinava. Aveva una fluente barba bianca e manteneva un contegno di grande nobiltà, anche se attento e curioso. Gli altri nomadi erano cordiali, allegri, sebbene si avvertisse in loro una sorta di aggressività da gatto pronto a graffiare. Tutti chiedevano medicine, dawa, e noi aprimmo la nostra farmacia. Una donna aveva bisogno di lanolina per le sue mani screpolate e sanguinanti. Halima, adorna di collane d'argento e di orecchini infilati alla sommità delle orecchie, ci portò il figlio che tossiva. Gli aveva applicato delle ventose sulla piccola schiena e ancora se ne vedevano i segni violetti. La ventosa era una tazza di rame forata sul fondo da cui veniva aspirata l'aria per mezzo di un tubo. Al momento di accomiatarci, il nobile vecchio dalla barba bianca si offrì di accompagnarci fino a Kabul, poiché le donne non sono fatte per viaggiare da sole. Non avevamo percorso più di 3 chilometri che ci accorgemmo della scomparsa della mia seconda Leica. Era stata rubata mentre ci improvvisavamo dottori. E avevo appena finito di dire a Cristina quanto i nomadi fossero superiori a certi sfrontati di città che alla prima occasione cercano di sottrarti qualcosa. Torniamo indietro e chiamiamo il Malik, l'anziano. Siamo tristi, il nostro sguardo è duro. Le parole sono inutili. La nostra mimica è sufficiente. Mentre ci rendevamo loro utili, qualcuno ci ha depredate, senza possibilità di dubbio di un oggetto simile a questo, una vera vergogna. Avvilite, ci sedemmo in silenzio sul bordo della strada, mentre l'anziano teneva consiglio sull'erba del prato. Doveva nutrire fondati sospetti su chi fosse la pecora nera del suo gregge. Ben presto ci raggiunse un uomo dai capelli castani, tutti scompigliati, che ridendo spingeva dinanzi a sé un bimbetto spaventato con la nostra macchina fotografica in mano. Il Malik adempì alle sue funzioni con stile. Fece il gesto di sputare sia sul ragazzo sia sulla Leica, come per cancellare l'onta del misfatto. Poi ci invitò a dividere con lui pane e sale sotto la sua tenda. Rifiutammo soltanto perché stava calando la notte e dovevamo raggiungere il nostro accampamento di Ain Garan. Non provavamo infatti nessun rancore nei riguardi della tribù.